nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, ben ritrovati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 dedicato alle donne, ai temi del lavoro e soprattutto a sfatare un mito, quello del multitasking, l'ultima grande fregatura che ci hanno appioppato dicendo che siccome siamo così brave possiamo fare tante cose contemporaneamente. Una fregatura, appunto. E però questa domenica vorrei anche cominciare a sgretolare con voi in vostra compagnia un altro mito, quello secondo il quale le donne non sono capaci di fare squadra, il che è vero, è ancora vero, è stato vero per secoli, ma forse adesso anche noi, guardando, copiando da quello che sanno fare gli uomini benissimo, fare squadra, forse cominciamo a apprendere qualcosa anche noi. Tanto per citare un saggio del secolo scorso, un saggio di Gaetano Mosca, La classe politica, due righe del quali dovremmo un po' forse tenere a mente. 100 che agiscano sempre di concerto e di intesa gli uni con gli altri trionferanno sempre su 1000 presi uno ad uno che non avranno alcun accordo fra loro. E dunque di questo, di fare squadra e di fare in modo di non sentirsi soli sul posto di lavoro, parleremo di questo appunto oggi a Nessuna è Perfetta. Prima però, come di consueto, è il momento di assegnare il nostro premio alla donna imperfetta della settimana. Una donna che anche voi ascoltatrici e ascoltatori potete aiutarci a individuare scrivendo all'indirizzo mail nessunaeperfetta@radio24.it e commentate anche con noi su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta. Ne avete già mandati di tweet in questi giorni e proprio sul tema sentirsi soli in ufficio, sentirsi soli in azienda. Veniamo però alla donna imperfetta della settimana. Chi si aggiudica l'ambito premio del nostro programma? Si tratta proprio di Beyoncé. Perché proprio lei? Perché qualche giorno fa, arrivata a un concerto con un abito dalla scollatura vertiginosa, ha redarguito pubblicamente la sua assistente che, poverina, cercava di sistemarle il vestito. Proprio alla faccia del fare squadra tra donne. Hai un assistente che si preoccupa di evitarti una scivolata, è il caso di dirlo, in tutti i sensi, e tu la umili in mondovisione? Non è fair, Beyoncé. Una volta sistemata la donna imperfetta della settimana e una volta ricordato che potete darci il vostro contributo e le vostre segnalazioni scrivendo a nessunaeperfetta@radio24.it, è arrivato il momento del nostro agente provocatore della settimana. Sapete che tutte le settimane abbiamo un uomo che provoca e che tenda o tenta di farci arrabbiare. Comunque l'agente provocatore di questa settimana è tante cose insieme, si direbbe all'American comedian, ma è anche autore di libri che sono sempre insieme pungenti e anche molto riflessivi, fanno riflettere. L'agente provocatore, insomma, questa settimana è Gene Gnocchi. Benvenuto a Nessuno è Perfetta, buona domenica. Grazie, buona domenica. Fammi tranquillizzare subito chi ci ascolta, vorrei che sapeste tutti che Gene Gnocchi non è in studio con me, e questa è già una notizia, perché qualche settimana fa era ospite dell'edizione serale del TGR della Puglia, appunto per presentare il suo ultimo romanzo, Cosa fare a Faenza quando sei morto, e di colpo improvvisamente si è alzato e ha baciato sulla bocca la conduttrice. Questo non potrà succedere oggi perché siamo appunto a distanze siderali. È un buon sistema, adesso ti tocca fare, come hai promesso, il giro di tutti